Tutte, tutti, tutto. Qui è la trasmissione LSDC, ovvero la trasmissione delle scappate di casa, una trasmissione tanto voluta dall'Assemblea Napoletana Transfemminista di Non Una di Meno. E niente, è un modo per tenerci in compagnia, per capire insomma quali sono le condizioni della nostra quarantena, come stiamo passando la quarantena, dare voce alle nostre sensazioni, ai nostri disagi, alle sofferenze, alle violenze. E quindi insomma abbiamo proprio per queste, diciamo, per queste impellente esigenza di sentirci insieme vive, deciso di dare spazio a questa trasmissione, a cui invitiamo tutte, tutti e tutto a contribuire. E la trasmissione in realtà ci vedrà andare in onda probabilmente proprio dopo un mese esatto da quello che è stato l'8 marzo, che purtroppo, come dire, quest'anno l'abbiamo attraversato in delle modalità inedite, delle modalità comunque totalmente nuove, dove la priorità è stata quella di prenderci cura di noi e delle nostre sorelle. E in questa puntata abbiamo deciso quindi di ritornare un po' all'8 marzo, partire da lì, e lo faremo attraverso diversi contributi, in particolare attraverso un contributo di una nostra sorella che ha passato l'8 marzo in Colombia, e quindi insomma daremo a lei la parola per l'8 marzo. In seguito diverse voci sulle condizioni reali della quarantena, delle voci di guerriere che presenteranno la rubrica che ci accompagnerà in tutte le trasmissioni Fuita Venne. Sono delle guerriere fuggitive, poi capiremo perché, e tantissimi altri contributi. Per chiunque voglia scriverci insomma contribuire a questa trasmissione, vi invitiamo a farlo sulle pagine Instagram, Facebook di Non Una di Meno Napoli, ed anche attraverso mail all'indirizzo napolinudm@gmail.com. Partiamo subito con la trasmissione e con la nostra prima rubrica. Ciao! Donne, quando potete, fuitoven, guaglio! Buonasera, siamo qui nella casa rifugio a indirizzo segreto, io sono Demetra. Ciao, ciao donne, ciao ragazze, ciao bellissime, io sono Afrodite. Poi qui c'è la giovane operatrice Kitana. Lei è l'operatrice più giovane e carina della galassia. Ciao, sono Kitana. Un bacio a tutte chi sono state violente. Ogni tanto ci viene voglia di essere violenta, ha ragione Kitana. Voleva dire un'altra cosa. Volevo dire che i maschi erano violenti, questo ecco. Volevo dire, mi sono imbrogliata. Ciao, io sono la mamma di Kitana, sono Minerva, do un forte abbraccio a tutte e un caloroso bacio, ciao. Io sono Scorpion, il figlio di Minerva. Allora, tu vuoi andare a dormire? Va bene. Ciao, io sono Delta, bacio a tutti. E allora passiamo la parola alla nostra bellissima Afrodite. Allora, di nuovo un saluto a tutte quante. Ragazze, donne, cosa vi posso dire? Vorrei veramente dirvi tantissime cose. Dico soltanto una cosa: pensate ogni tanto, anzi io vi dico molto spesso, soprattutto in questi giorni di quarantena, pensate a voi libere, soffermatevi su quello, quello deve essere il pensiero fisso di ogni giorno. Fatevi venire il coraggio, perché il coraggio c'è, lo abbiamo, siamo ricche dentro, abbiamo un tesoro enorme dentro di noi. Ci vuole soltanto la forza e il coraggio di poter affrontare questo momento, e si affronta tranquillamente, ve lo dico io, credetemi, vi vorrei poter far conoscere veramente, realmente tutta la mia storia, il mio coraggio, quel momento in cui sono scappata e quel momento in cui sono arrivata in questa casa rifugio che mi ha accolta come se fossi veramente una loro figlia. È bellissimo essere qui con altre donne, confrontarci, chiacchierare, scherzare, giocare, perché finalmente noi giochiamo, ridiamo, perché noi sappiamo anche ridere, non sappiamo soltanto piangere. Quindi quello che vi voglio dire è: scappate, abbiate questa forza, perché ce l'avete, è soltanto il primo passo che dovete fare, dovete essere decisissime, perché tutto funziona, tutto passa e tutto si rimedia. Forza ragazze, un abbraccio a tutte. Io condivido tutto quello che ha detto Afrodite e vi dico una cosa: chi pecora si fa o lupo sa mangia. Combattete e lottate per voi stesse, per i vostri figli. A mia figlia. Facciamo che io ero una principessa e tu mi salvavi. Il passato è pure attuale, il presente è pure assente. È il nostro tempo ed è già tempo di nostalgia. Tu sei quella che mi ha tolto la terra da sotto i piedi e me l'ha messa sulle spalle, tutta assieme. Oggi non ne sento il peso. Sei la mia raboccatrice personale di bicchieri mezzi vuoti. Basta poco e tutto è più pieno. Sei la mia samurai, capace di rimettere insieme i miei pezzi ed io ogni giorno sono intatta, più lucente. Tu sei quella per cui meriti di essere ogni giorno migliore, la mia morale, la mia favola. Ti ho cresciuta nel modo più naturale ed ora è un incredibile privilegio crescerci insieme. Cresci, figlia mia, riempi la terra, moltiplica le tue passioni, non sottrarti alla novità, elevati alla potenza degli incontri fortunati, eleva lo sguardo, riempi la terra della tua grande e unica bellezza. Perché sei così bella che quando mi dicono che ci assomigliamo, faccio pace con la mia faccia. Presto ricreeremo il calore, ora ci sono spifferi, ma è normale, l'amore passa anche da lì. En un huequito al ladito del cielo, sudando del mismo veneno, torpe mis deseos, me veo otra vez mordiendo en el anzuelo. Adicto al desvelo, mala mía por hacerme nuevo. Y pa'l desasosiego, tragando saliva pa'l desasosiego. Pensamos que juntas desharíamos el nudo que en la tripa ulcera. No nos equivocamos, bajando la guardia pa' hacer que se crucen las manos. Nos enamoramos de nuestros propios enunciados. Soñamos con alma de mimbre, soñamos con no vernos esclavos. Echándole una guerra al tiempo, tus ojos se van entornando. Parece que me están diciendo, si yo me voy matando. Echándole una guerra al tiempo, tus ojos se van entornando. Parece que me están diciendo, si yo me voy matando. Te ne sono libera a scrivere, ma gli ultimi anni sono stati peggiori e dopo 6 mesi dentro alla casa rifugio a 2 stonghi e 2 creaturelle mi ha cercato con un messaggio. Ma sapete perché? Perché è arrivata quarantena E mo che stiamo a Pasqua, mi ha chiesto di non farci più del male, solo oggi, e a Natale arrostiva. Sta dicendo, torna a casa, lessi, ma ci scordato quinzaglia. Tu non comandi niente più, mo comandi a vita mia. Non abbiate paura di lottare e combattite, abbiamo tutti quanti i stessi diritti. Non solo loro possono puntare il dito, pure noi abbiamo il nostro rispetto. Oggi non voglio dare conto a nessuno e voglio la mia libertà fisica e mentale. Ho fretta e voglio andare per strada, voglio vincere la battaglia che ho interrotto. Voglio andare nel mondo lì fuori, vestita di luce e fiori. Donna, la colpa che ti porti dietro non è tua. Dividi il peso con me questa volta, che voglio fare poesia per il corpo e sfidare le leggi che l'uomo ha creato per dire che se mostra il décolleté è una puttana e se la gonna è corta è una puttana e se la dà al primo appuntamento è una puttana. E se rasa i capelli è lesbica. E se fa crescere i peli è una sporca. Se ha un cazzo tra le gambe è un travestito. Ma se mette i tacchi alti è santa. E se porta la 44 è grassa. Ma se porta la 38 è troppo magra. Se esce dopo le 11 di sicuro sarà aggredita. Perché l'ha voluto lei, no? Ce l'aveva scritto in faccia. Guarda i vestiti che indossava. E tutto il discorso maschilista continua. Ragazza, dovevi usare un vestito meno corto. Chi si usa decote è puta. E se a saia tá curta è puta. E se dá no primeiro encontro è puta. Se raspa o cabelo, é sapa. E se deixa crescer os pelos, é zoada. Se tem pau entre as pernas, é trava. Mas se bota salto alto, é santa. E se usa 44, é gorda. Mas se usa 38, é muito magra. Se sai depois das 11, vai voltar arrombada. Porque ela pediu, né? Tava na cara. Roupa que ela saiu de casa. E todo o discurso machista continua. Menina, você devia usar uma roupa menos curta. Eu tenho pressa, eu quero ir pra... Ciao a tutte, a tutto e a tutti. Sono Zoe, una compagna di Non Una Di Meno e sono recentemente tornata da un viaggio in Colombia dove ho avuto la fortuna di partecipare alla marcia dell'8 marzo, quindi volevo condividerlo con voi oggi a un mese dall'8. La marcia a Bogotà è stata potentissima. Il grido dell'8 marzo è risuonato per tutte le vie e i diversi quartieri della città, dai più moderni ai più popolari, fino ad arrivare al Parque Olaya, nella zona sud della città, dove più marce, collettive e batucadas callejeras si sono incontrate creando uno spazio costruito apposta per quella giornata, libero e autodeterminato, che è stato chiamato il Gran Bazar Popular de las Mujeres Trabajadoras. Il quartiere è stato scelto dopo un lungo percorso durante l'anno di attività e iniziative nelle parti più periferiche, distanti e socialmente svantaggiate della capitale. La cura e la sorellanza hanno sicuramente circondato e protetto quello spazio, rilanciando un'allerta femminista di lotta echeggiante per tutta l'America Latina. Il grido più forte e ripetuto durante la giornata è stato «Hay que abortar ese sistema patriarcal», quindi bisogna abortire questo sistema patriarcale che penso riassuma bene le rivendicazioni più forti che sono uscite nella giornata di sciopero. L'aborto libero, sicuro e gratuito, che in Colombia è legale solo in caso di rischio per la madre, malformazione del feto o in caso di stupro. Gli abusi sessuali quotidiani sui trasporti pubblici, sui luoghi di lavoro, per le strade e in casa. I continui stupri di 55 bambine in media al giorno, i femminicidi e la violenza ambientale nelle terre delle comunità indigene, lo sfruttamento di corpi e territori in terre violentemente e abusivamente industrializzate che invisibilizzano, opprimono e uccidono interi popoli e comunità e l'omicidio di moltissime leaderesse sociali. Infatti si stima che dalla firma degli accordi di pace tra il governo e le FARC alla fine del 2016 più di 500 lideresas e leader sociali siano stati uccisi. L'ultima di cui siamo a conoscenza si chiamava Carlota Isabel Salinas e lottava per i diritti delle donne lavoratrici e per l'accesso alla salute. L'hashtag utilizzato dal coordinamento dell'OCM è stato Somo sul rostro collettivo, quindi siamo un volto collettivo, e con questo le compagne del movimento femminista autogestito a Bogotà volevano lanciare un messaggio potente che potesse espandersi per tutta la Colombia. Un lavoro unito di donne e soggettività diverse tra loro, con un elemento comune, quello dell'oppressione, che ci attraversa nelle nostre vite, nei nostri corpi, nei nostri territori, solo per il fatto di essere o di scegliere di essere donne. Questo messaggio vuole farci andare avanti per mano, senza bisogno di protagonismi, individualismi, con una voce comune contro questa oppressione e una voce che per il fatto di essere collettiva è tanto potente quanto trasformatrice. In quella giornata Los Tombos, la polizia, aveva avuto l'ordine di non intervenire, di non rispondere, volendo far credere che le forze dell'ordine si schieravano contro il macismo. Le sorelle ne hanno approfittato per scrivere su caserme e stazioni di polizia dell'esercito la verità, ovvero che la polizia non ci tutela, ma ci violenta. Los Tombos son violadores, Los Tombos no me cuidan a mí, me cuidan mis amigas. Quindi i guardi sono stupratori, i guardi non mi proteggono, a me proteggono le mie amiche e le mie sorelle. Questa ipocrisia violenta delle forze dell'ordine si è rivelata pochi giorni dopo, quando è iniziata la quarantena. Infatti un poliziotto nella località di Bosa, pochi giorni dopo, ha stuprato una donna. Negli interventi dal palco è stata ricordata l'iniziativa della mattina davanti al carcere femminile. È stato detto che le persone trans e le lavoratrici del sesso fanno parte del movimento e che l'unico femminismo possibile è il transfemminismo. Ed è stata ribadita anche l'autonomia assoluta da ogni forma di partito politico. Contemporaneamente a Cartagena de Indias altre migliaia di donne hanno marciato e protestato, come nel resto del paese anche a Medellin, a Cali, a Barranquilla, a Manizales e a Bucaramanga. A Bogotà hanno avuto luogo anche altre iniziative e attività organizzate dalla giunta della nuova sindaca, che è una donna, Claudia Lopez, e lesbica, e da cui ci si aspettano molti sviluppi sociali a tutela, visibilità e potenziamento delle comunità LGBTQIA+, ma che in realtà non si sono ancora né portati avanti né nominati. Penso che essere lì abbia significato moltissimo per me e per tutte noi. Essere insieme alle compagne colombiane, latinoamericane, ci fa sentire parte di qualcosa di più grande che non conosce assolutamente frontiere, una potenza che in un'ottica transnazionale che stiamo portando avanti non si fermerà davanti a questa continua crisi e violenza globale, e che l'unica cosa che conta è prenderci cura le une delle altre, unite dalla lotta e da quello in cui crediamo. Abbattendo il patriarcato, la violenza di genere, componente feroce radicata nel sistema politico, sociale, economico e sanitario di tutti i paesi, contro il nazionalismo violento e qualsiasi forma di nazionalismo e il sistema capitalista neoliberale. Durante il corteo della giornata è stato più volte cantato e gridato un violador en tu camino, e vi lascio con questa frase che è stata scritta più volte su più muri della città: si no vuelvo, quémalo todo. Se non torno, brucia tutto. Odio lo piropo, lo pavoso. Ay, yo, yo, yo. Unión entre los extremos. Yo, yo, yo. Del sacrificio cero que me hicieron en mi campo de batalla, me atrinchero, ensucio todo lo que escribo, pa' luego prenderle fuego. Me enseñaron a callar, a no expresar, a no llamar la atención, a no ser escandalosa, a no ocupar espacio, a tener vergüenza, a ser simpática, víctima, mona, y todo lo demás sería motivo de burla. Pido afecto a las que resistimos, respeto a las que ladran su dolor legítimo, reconocimiento y difusión, somos la nueva promesa del hip hop. Y no abrís el templo, no se entiende lo que nos cuesta llegar. Femenina, trans o bollera, sé que lo cuestionarás. Histéricamente poética, escribo de nuevo la historia desde otro lugar. Ay, ay, ay. Bene, eccoci qui di nuovo insieme con le scappate di casa. Apriamo adesso la sezione dedicata al Io resto a casa ma, che è una campagna creata da Non Una di Meno e che appunto vuole mettere l'accento su tutte quelle che sono le difficoltà e i disagi che implicano, no, il nostro stare a casa. E quindi questa campagna nasce appunto sia per rompere quella che è la solitudine che ci ritroviamo a vivere, l'isolamento, per connetterci tra di noi, ma soprattutto per raccogliere le voci delle nostre difficoltà, di chi effettivamente sta pagando lo stare a casa o anche il lavorare in questa fase di emergenza, chi è che sta pagando in tutti i termini questa emergenza. E attraverso questa campagna, insomma, abbiamo deciso di metterci in connessione e di far circolare le nostre voci, le nostre lotte, le nostre modalità di resistenza, ma anche, diciamo, di girarci informazioni e strumenti possibili per sostenerci da lontano e soprattutto per lottare insieme e ricordarci poi, una volta che avremo nuovamente la possibilità di attraversare queste strade, insomma, di rendere chiaro contro cosa lottiamo e come Io portarlo avanti. resto a casa. Cosa dire? Ma Cosa possiamo dire? Ormai sono quasi un mese di arresto a domicilio obbligato per colpa di questo corona finduzzo. Come la sto passando? E la sto passando quasi a molto spesso in solitudine, essendo sola. E tanto, tanto arrabbiata quando sento le mie compagne, le mie amiche che non hanno neppure gli alimenti per mangiare. Molti di loro che mi telefonano, mi lasciano i messaggi che mi dicono: Loretta, tu hai fatto un video dove dici restiamo a casa. Sì, restiamo a casa, ma fino a quando possiamo stare a casa che non possiamo neanche mangiare più? Ci cacceranno anche fuori dalle nostre catapecchie. E penso, mi arrabbio molto, perché poi diventano sempre gli ultimi tra gli ultimi. E questo coronavirus a quello sta cciudendo sempre gli ultimi degli ultimi, che vengono sempre lasciate sole e lasciate ai margini. Ecco perché a volte sto arrabbiata e mi passa. Con quella rabbia mi passo quel po' di solitudine che mi prende a volte durante la giornata. Sto cercando di fare tante per le nostre ragazze. Con la rete sto cercando, alcune ho fatto ricevere dei pacchi alimentari. Speriamo che la prossima settimana gliele daranno di nuovo. Almeno si potranno nutrire. Come la sto passando? La sto passando che mi sento come una pazza. Stonche, esaurite e depresse insieme. Però tengo un pensiero che ha da passare. Tutto passa e sto maledetto virus passerà anche lui. Sperando sempre che fino a quando passa io mi trovo ancora nel mondo delle vive e dei vivi. Ok, ciao ragazze, mi raccomando ragazze, ragazzi, tutti quanti, restiamo a casa, restiamo a casa, facciamo in modo che questa storia finisca presto, questo brutto incubo finisce presto. Quarantena è una quarantena incazzata, è una quarantena che non riesce a vedere al di là del semplice effetto restate a casa, siamo tutti amici, siamo tutti nella stessa barca. Perché non è così, questa quarantena ci sta facendo veramente male perché ci sta facendo rendere conto di quanto anti umano sia il governo che sta governando il Brasile in questo momento. Le persone stanno lavorando, le persone stanno prendendo la metropolitana tutti i giorni, ci sono persone che non hanno un'alternativa reale al andare per strada e lavorare con quello che si può, raccogliendo cartoni, raccogliendo vetro, raccogliendo lattine, facendo un po' di vendite. Di cose da mangiare o di cose da bere. e questa cosa non si fermerà purtroppo. Ci sono storie di persone, tantissime persone purtroppo, soprattutto nelle comunità, ovvero le favelas, che non hanno da mangiare, che non hanno nemmeno il riso, nemmeno i fagioli per fare un piatto da mettere a tavola per i loro bambini. Quindi la quarantena per noi è un privilegio assurdo che in un paese di super differenza tra chi tiene tutto e chi non tiene niente, il fatto di poter restare in quarantena è veramente un privilegio di classe. E noi siamo incazzati perché non vediamo l'ora che tutto questo finisce per andare a Brasilia e appicciare tutto. E l'impeachment di Bolsonaro sarà una cosa assolutamente reale che avverrà. Dopo questa pandemia mondiale, ci auguriamo. Un bacio radio. Ciao a tutte, mi chiamo Eleonora, ho 46 anni, vivo nel centro di Barcellona ormai da 20 con mia figlia Laia di 14 e il quartiere si chiama Raval, è molto vicino alla Rambla e niente, adesso in questo momento sento gli elicotteri che sorvolano la città, veramente la sensazione di essere in stato d'assedio, i furgoni della polizia locale, lo Mossos, la guardia urbana, i controlli se cammini a piedi. L'altro giorno camminavo, sono andata a fare la spesa al supermercato ed era il primo giorno di sole dopo vari di pioggia, per cui vabbè, mi sono messa il mio vestito, ero di buon umore e niente, andavo per strada. Sembra che l'unico modo per non farti fermare è andare da sola con gli occhi bassi, la pezza in faccia, come se il cappuccio, la pezza in faccia, la faccia scura, e allora lì non ti dicono niente. In quel caso, vabbè, io andavo con mia figlia, cioè, chiacchierando, io mi sono sentita umiliata. Mi hanno fatto un interrogatorio stupido: da dove vieni, dove vai, che cosa fai per strada, ma non ti rendi conto della gravità della situazione, eccetera, eccetera. Insomma, vabbè, la situazione è questa, è infantilizzante, e autorizza a molti poliziotti stupidi ad avere degli atteggiamenti degradanti e umilianti. Anche se vai semplicemente a fare la spesa, io ero a 50 metri del portone. E per il resto, vabbè, che cosa vi racconto? Mi sembra che sia abbastanza simile a quello che succede in Italia, quindi bisogna mostrare un certificato, ma a volte autocertificato, però a volte non serve a niente. Se ci sono compagni, compagne che hanno avuto questa multa, anche presentando il certificato, perché il poliziotto di turno ha deciso che pues non erano meritevoli di compassione. Per cui niente, si gioca il gatto al topo per andare da un posto all'altro e cercare anche di organizzarsi. Io nello specifico lavoro sul tema della casa vi dirò, insomma, i primi giorni era anche piacevole vedere queste strade vuote, questa assenza di turisti, perché come vi dicevo, cioè, abito nel pieno centro di Barcellona, gli hotel chiusi, finalmente si respirava bene. E quindi veramente una voleva sperare che ne so, che questi giorni potessero essere dei giorni di calma, tranquillità, e dice, vabbè, ci riorganizzeremo. Però vabbè, la situazione diventa sempre ogni giorno di più violenta. Ci stiamo organizzando per fare fronte a delle situazioni veramente di miseria estrema. Sono tante le famiglie che partecipano dello spazio del sindacato d'abitaggio o di altri collettivi nel quartiere che sono rimaste senza lavoro, se ce l'avevano, lavoravano a nero, per cui non c'è neanche la possibilità di entrare in quel meccanismo che si chiama ERTE, che se ti hanno licenziato, insomma, puoi accudire a una misura che sarebbe più o meno paragonabile al reddito di quarantena. Diciamo, quelli che sono sempre stati precari e che vivono così da tanto tempo non hanno diritto a un bel niente, e quindi niente, si sono organizzate, che dicevo, si sono organizzate. Si era organizzata la raccolta di alimenti, anche un gruppo di sostegno psicologico. I giorni dell'8 marzo, i giorni di preparazione all'8 marzo sembrano ormai lontani. Io personalmente ho partecipato, come dicevo, mi muovo nel sindacato per la casa. Il sindacato si organizza in ogni quartiere, quindi io sono qui nel quartiere del Raval e con le donne del sindacato abbiamo organizzato un'azione che era appunto di occupazione di case per le donne, nelle quali in quel giorno ci siamo occupate noi di aprire le porte degli appartamenti, eccetera, però hanno sgomberato il giorno dopo e credo che sì, adesso se ci penso è stata poi la settimana seguente, una cosa come 10 giorni dopo che, no, neanche 10, una settimana che è iniziato il confinamento, che è stato graduale, i primi giorni erano un po' più tranquilli, adesso veramente, cioè sembra di stare in guerra, ovviamente cambia di quartiere in quartiere, sono i quartieri popolari quelli nei quali succedono più cose assurde, vanno in giro con le macchine, la guardia urbana, lo Smossus, con i megafoni dicendo alla gente di restare in casa e immaginate che cosa può essere stare in casa in 15 magari o semplicemente con i tuoi figli in un appartamento piccolo di pochi metri quadrati, ma sicuramente a Napoli è la stessa cosa. Per cui vabbè, ci sono queste macchine che vanno in giro con i megafoni. E che altro vi racconto? Niente, che adesso è iniziata sempre per quello che mi riguarda, la vaga da alquileres, la huelga de alquileres, ossia lo sciopero degli affitti. Stiamo organizzando lo sciopero. E dal punto di vista personale, io e mia figlia è pesante. Ci sono dei giorni che sono un po' più. Sono un po' più facili degli altri tipo ieri, l'altro giorno, mia figlia aveva il mal di denti, io non riuscivo a contattare un dentista per sapere che cosa dovevo fare, gli stanno venendo fuori i denti del giudizio. Poi io personalmente, alcune compagne lo sanno, ho avuto un'esperienza, c'è cioè un tipo con il quale sono stata. Dopo essermi lasciata con il mio compagno, che mi ha minacciato di morte per quando ci siamo lasciati, mi ha minacciato, insomma, che se non capivo, diciamo, le sue ragioni e non mi mantenevo lontano da certi posti, non ero io l'oggetto di minaccia, se non mia figlia. Per cui vabbè, sono stata molto male durante molti mesi e adesso iniziavo a stare bene e realmente stare chiusa in casa mi riporta tutta una serie di situazioni. Vabbè, niente. L'attenzione psicologica che avevo insomma, dai gruppi di violenza di genere, violenza macista, e si è riorganizzata un po' per telefono, però io non sono riuscita veramente a rispondere alle due chiamate che mi sono arrivate, per cui cioè, sto soffrendo moltissimo l'ensierro, cioè gli unici momenti nei quali realmente sto bene sono i momenti nel quale, diciamo, si rompe l'isolamento a livello collettivo. Per esempio adesso stiamo facendo le pancarte, gli striscioni sul terrazzo, o ci stiamo organizzando per lo sciopero degli affitti. Boh, non so, mi piacerebbe aggiungere tante altre cose, però forse sta diventando un po' troppo lungo. Un abbraccio a tutte. Tengo cosas que decirte, mira, escucha con confianza. Atenta a la población, ya está sonando la nueva alianza. Dignidad y sabiduría, hay en la enseñanza. Su majestad imperial, el que me cuida y no descansa. Quiero que te quede claro que cuando hablo de Babilón, refiero algo concreto, no es metáfora, atención. Son los muchos y distintos mecanismos de control que mantienen a la gente oprimida y en dolor, como el racismo, imperialismo, capitalismo, colonialismo, fascismo, jerarquías, una gran cuota de egoísmo. Tanto para la villa, para la población, favelas, canteriles, nos falta educación. Tanto para la villa, para la población, la barriada, el rancherío, nos falta organización. No somos rebeldes, somos revolucionarios. No creo lo que dice la Biblia, pero lees los diarios. No sirven los políticos, nunca nos representaron. Esto no es misticismo, es realidad que está explotando. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Ok, ringraziamo tantissimo Alice, Loredana ed Eleonora che da tre località diverse, da San Paolo in Brasile, da Barcellona in Spagna e da Napoli, insomma, ci danno tre dimensioni diverse di quella che è la quarantena e di che cosa significa rimanere a casa. E se da un lato sicuramente ci fanno coltivare, come dire, questa necessità di rompere l'isolamento a livello collettivo, dall'altro lato ci mettono, ci portano insomma a mettere l'accento su che cosa significa rimanere a casa, lì dove per esempio rimanere a casa purtroppo equivale a fare i conti con degli incubi, lì dove rimanere a casa significa non guadagnare, lì dove rimanere a casa invece è, rappresenta un privilegio di classe. E, facciamo un piccolissimo e brevissimo passaggio, poi avremo modo di approfondirlo nelle prossime puntate, però Eleonora ad esempio nel suo intervento ci ha messo l'accento su quello che rappresenta insomma l'uscire anche di casa, no? Cioè, molto spesso ci ritroviamo con gli occhi bassi, da sole, con le pezze in faccia e veniamo sottoposti ad interrogatori stupidi, infantilizzanti da parte delle forze dell'ordine. C'è giunta segnalazione sulla nostra pagina di Non Una di Meno anche di casi in cui le forze dell'ordine dinanzi ad una donna hanno ben pensato successivamente di utilizzare quel contatto privato per mandare dei messaggi WhatsApp che non hanno nulla a che vedere con quella che è la quarantena, con quello che è, diciamo, lo svolgimento dell'eventuale pseudocontrollo. Insomma, mettiamo al centro anche tutte le criticità di questa quarantena e mettiamo al centro soprattutto tutto quello che, insomma, non vogliamo che questa quarantena provi a sdoganare oppure a rendere normale. E ci salutiamo per oggi con la sezione dedicata appunto io resto a casa, ma continuiamo con bibliomanzia ed astrosfiga. E quindi continuate a seguirci. Ricci, limoni e caffettiere, piccoli stratagemmi di una vita ristretta. Ma quale vita ristretta? Una vita ristretta che si consuma tra quattro mura, che non ci rende tutti uguali, ma anzi evidenzia che ci sono delle differenze tra ricco e povero, tra uomo e donna, tra tutte le differenze che ci caratterizzano, e che in fondo il tunnel, se ci stai dentro, lo possiamo arredare, ma l'unica cosa che prevale è una gran voglia di uscirne, una grande voglia di libertà. Ricci, limoni e caffettiere è un libro curato da Liscia e scritto dalle detenute di Re Bibbia. È diviso in sei sezioni che comprendono un meraviglioso ricettario in cui troverete stratagemmi di bellezza, di salute, di sapori, di espedienti, di scritture e anche di gioco. Quello che noi vorremmo è invitarvi alla bibliomanzia, quindi prendere il libro tra le mani, aprirlo casualmente e andare a cercare lo stratagemma che il libro vi suggerirà. Naturalmente ci teniamo, come dicono le donne che l'hanno scritto, che arrivasse alle persone che non si rendono conto di che cosa vuol dire essere recluse. Quindi mandaci i tuoi stratagemmi per una vita ristretta e non tenertelo con te, ma passa parola per piacere. Ed eccoci arrivati alla rubrica Bibliomanzia. Nell'ambito della trasmissione LSD, le scappate di casa, ci prendiamo qualche minuto dopo la presentazione delle Cristine del libro Ricci, limone e caffettiere per vedere la nostra bibliomanzia che stratagemma di bellezza ci regala. Ho in mano questo libro, Ricci, limone e caffettiere, che adesso con un rito magico, aprendolo quindi a casa, e vediamo cosa ci suggerisce. Rito: oran san sam, oran san sam, yori yori yori yori yori, oran san sam. La bibliomanzia. Ok, rafforzante per le unghie. Metti dell'olio di oliva in una padella e fallo scaldare con del succo di limone. Immergi le dita nel composto e massaggia le unghie per un paio di minuti. Questa operazione falla una volta a settimana. Oppure taglia una fettina di limone e sfregala sulle unghie, saranno più forti. Oppure taglia il limone a metà, scarnificalo un po' e lascia le dita nel limone per 20 minuti. Poi le togli, levi quello che resta, infine le sciacqui e le unghie diventano più dure. Oppure aglio e smalto, metti un pezzetto di aglio nello smalto, quello base, quello trasparente, così rafforzeremo le nostre unghie. Ma a pagina 29 di Ricci, limoni e caffettieri abbiamo anche un altro stratagemma che ci viene suggerito dalle detenute di Re Bibbia. Scrub per il corpo. Ingredienti: sale grosso o sale fino, insieme a crema o bagnoschiuma, oppure meglio, se disponibile, olio di oliva. Unisci il sale al bagnoschiuma e all'olio e passalo sul corpo con movimenti circolari, soprattutto sulle zone dove la pelle è più dura. Quando hai finito, sciacqualo via. Ecco, abbiamo letto due stratagemmi da Ricci, limone e caffettieri, piccoli stratagemmi di una vita ristretta, realizzato dalle donne detenute di Re Bibbia, e con questo la rubrica bibliomanzia è terminata per stasera. Alla prossima, ciao a tutte, a tutti e tutto. Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo, non si vede. vede più, a chi non ha uno specchio, e comunque non per questo non ce la fa più, a chi ha lavorato, a chi è stato troppo solo e va sempre più giù. Ciao dolci stelle incattivite, ci troviamo al primo favoloso contributo astrologico dalla quarantena per la quarantena, di cui potevamo fare a meno. Contenuti di intrattenimento prodotti da settimane di banalissima nevrosi casalinga, ma non togliamo spazio alle stelle. Questa settimana, e precisamente dal 3, la fa da padrona Venere, che sosta nel segno dei gemelli, mandando in subbuglio l'ormone degli erotomani acquare, bilancia e ovviamente gemelli. Nevare gioia invece per il Sagittario, Vergine e Pesci, che continueranno a piangersi addosso. Questo transito di Venere, unito al distanziamento sociale, incoraggerà in noi la ricerca di contatto e di un'emozione da poco, come canta Anna. C'è una ragione che cresce in me. Complice la superluna piena in bilancia dell'8 aprile, vedremo l'Ariete incaponirsi di più, il Toro essere sempre più pedante, il Gemelli provare curiosità per il vicino, il Cancro mandare messaggi d'amore confuso, il Leone prendersi qualche tarantella, la Vergine cercare il vaccino per l'ansia e la Bilancia risolvere qualche problema di quartiere, lo Scorpione fare un po' di sano erotismo al balcone, il Sagittario vincere qualche guerra mentale, il Capricorno scrivere una mail veramente polemica a Conte, l'Acquario proverà ancora più autoindulgenza e i Pesci proverà risentimento artistico e mai personale. Consiglio per tutti, con questa luna piena, gesti corali, evocativi e antisfiga, ma se vorrete anche solo masturbatori, per mandare nello spazio qualche bella energia di amore. Straconsigliati sex toys da poter utilizzare da soli o in compagnia. Strasconsigliato invece è stimolare la fantasia con siti che sostengono il revenge porn e la cultura dello stupro. Questa settimana l'astro merda la vincono proprio loro, chi trasforma il sesso in stupro e la mancanza di consenso in violenza. Per loro, i nati sotto il segno della merda, prevede una settimana di terribili dolori articolari delle mani, entrambe.